Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io sono qui, in acqua. Sono dovuto scendere dalla mia barca. L'ho dovuta lasciare per fare qualche bracciata e continuare a sognare di riuscire a fare due passi. L'acqua a volte è molto fredda, ma il pensiero che dietro tutto questo possa esserci una soluzione o anche soltanto un sollievo la rende incredibilmente più calda, ve lo giuro. Ciao, mi chiamo Antonello Tovo, vivo alla Maddalena in Sardegna e ho 37 anni. Lo dico sempre, più o meno, o quantomeno ho cominciato a dirlo da qualche mese a questa parte, che ogni storia che raccontiamo in questo programma è un po' la nostra storia. Il fatto che ci siano delle storie anche eccezionali, anche straordinarie, che però colpiscono chi ascolta, è dovuto probabilmente al fatto che in un angolo di noi, nascosto, qualcosa di quella storia lì ci appartiene. La storia di oggi, lo dico apertamente, mi appartiene molto più di altre, per un semplice fatto che quando ho letto i racconti insieme a Tiziano, che continuate a inviarci, a voi siete qui, @radio24.it, non ci ho messo molto a riconoscere la persona che era protagonista di questa storia, autrice di questa storia, che è una persona che conosco ed è un amico. Ho deciso di raccontare questa storia non solo perché è una bella storia, non solo perché racconta qualcosa di particolare, ma perché io sono convinto che appartenga a tutti. È una storia che parla di sport anche, e dello sport che in qualche modo ci salva la vita. 349-238-6666. Se in tutte le declinazioni che questa frase può avere, vi ritrovate in qualunque accezione di questa frase, cioè lo sport che vi salva la vita ha qualcosa a che fare con la vostra storia, 349-238-6666. Anche solo perché andate a correre e vi ritrovate un po' di pace, perché andate a giocare a pallone e avete voglia di tornare a correre tutte le sere. 349-238-6666, lo sport che vi salva la vita. Questa è la storia di Antonello, che vi consiglio di mettervi comodi e ascoltare con grande calma. Il tempo oggi è buono, finalmente un giorno senza vento. È stato un inverno duro e anche nevicato, e non capita spesso qui sull'isola della Maddalena. Arrivo alla mia solita baietta, percorro i 4 metri di sabbia che separano la mia auto dal mare e mollo le mie stecche, i due appoggi che uso per camminare. Dopo solo 3 difficilissimi passi in acqua perdo l'equilibrio e cado. Cado ancora una volta all'indietro. Ruoto su me stesso e striscio verso il mare. Mi sembra l'idea migliore, perché provare ad alzarmi e tornare alla macchina adesso sarebbe quasi impossibile. Non che decidere di entrare in acqua dopo una caduta sia più semplice, però almeno c'è una speranza. E la speranza che dopo un po' di nuoto ci sia il solito beneficio che mi spinge a entrare in acqua ogni volta che posso. L'acqua è fredda e mi sento particolarmente irrigidito. Oltre a gambe e busto, il braccio e la mano sinistra sono contratti, il pugno quasi chiuso. Provo a dare due bracciate, ma è molto dura. Ho paura. Paura di affogare. Paura di non farcela. Di non farcela più. Ora però si può solo andare avanti. Resto molto vicino alla costa, dove posso, in caso di necessità, appoggiare la mano destra sul fondo e alzare la testa per respirare. In questo frangente io credo di avere davanti a me la misura esatta della mia precarietà. Ma non importa, inizio a dare delle bracciate sempre più convinte e lentamente il movimento si scioglie e la respirazione si fa più convinta. Continuo a spingere sulle braccia e la mia speranza, ancora una volta, viene accontentata. Mi alzo in piedi, a qualche metro dalla spiaggia. Tengo la posizione eretta per circa un minuto e poi, con passo lento ma incredibilmente deciso, esco dall'acqua. Mi asciugo, faccio un po' di stretching, poi cammino per una mezz'ora. Il passo non è normale, ma cammino senza appoggi. Impacciato, lento, storto, ma cammino. Per me è sempre stato importante avere degli obiettivi e perseguirli in maniera seria. Non sono mai stato uno spericolato, pur avendo fatto delle cose per mare che lo farebbero pensare. Oggi per me avere degli obiettivi non è una scelta, ma è una imposizione, e l'obiettivo è quello di dare qualità alla mia vita e soprattutto alla battaglia che conduco contro la malattia. Capita a volte che la vita prenda un improvviso cambio di rotta. Una vincita, la conoscenza di una persona, un viaggio. Se a imporre una virata netta però è una malattia, le prospettive che si aprono possono essere di difficile interpretazione, anche per i più ottimisti. La virata nel mio caso è stata rapida, pochi anni, ma non improvvisa. Tuttavia, in alcuni casi, la progressione della sclerosi multipla può essere così rapida da non lasciarti il tempo di realizzare che la vita che avevi se n'è andata. Gli interessi, le priorità, le emergenze, le paure sono cambiate, totalmente. I sogni no, non cambiano i sogni. I sogni rimangono sostanzialmente gli stessi, sfidanti ed eccessivi. Oggi mi ritrovo con due vite da gestire. La prima vita è fatta principalmente di uno sport, la barca a vela. La barca è stata per me un gioco, una passione, un lavoro e una casa. Equilibrio, agilità, rapidità, precisione. Per circa 30 anni ho sviluppato quotidianamente queste abilità. Abilità che ho iniziato a coltivare all'età di 5 anni. Dopo i 30 anni ho iniziato a perdere progressivamente l'equilibrio, fino ad essere costretto a camminare con due appoggi. La mia nuova vita però non è questo. La nuova vita è un altro sport. Poco più di 2 anni fa ho deciso di sospendere il calvario delle cure ufficiali che nel mio caso hanno comportato purtroppo solo effetti collaterali. Ho iniziato un lungo periodo di ricerca su diversi approcci alternativi o complementari. Alla ricerca di un'attività, di un gesto, consentitomi dalle mie disabilità, ho iniziato ad avvicinarmi al nuoto. Tra le varie prove e tentativi di mettere in salvo i miei muscoli, ho scoperto tardivamente rispetto alla mia età che il nuoto è un'attività che non soltanto fa molto bene in generale, ma sulla mia patologia provoca una sorta di remissione completa dei sintomi. Era aprile. Nonostante la bella giornata di sole, il mare era molto freddo. L'impatto con l'acqua irrigidì ulteriormente le mie gambe già bloccate. Immediatamente mi trovai in affanno per il gelo. Forse disperato per il freddo, iniziai a dare bracciate all'impazzata. Pochi minuti di nuoto e mi accorsi che l'ipertono dei muscoli delle mie gambe era scomparso. Potevo piegarle, muoverle, addirittura fare il movimento della rana. Lasciata l'acqua e riposato qualche minuto al sole, notai che lo stato di grazia persisteva. Mi risollevai in piedi e presi a camminare come non mi accadeva da almeno 3 anni. Io non credo ai miracoli e non amo illudermi, e infatti, dopo circa mezz'ora, il beneficio, come immaginavo, svanì. Ecco, ora io sono qui, in acqua. Sono dovuto scendere dalla mia barca, l'ho dovuta lasciare per fare qualche bracciata e continuare a sognare di fare due passi. L'acqua a volte è molto fredda, ma il pensiero che dietro questo possa esserci una soluzione o anche soltanto un sollievo la rende incredibilmente più calda. Ve lo giuro. Ecco, se mettersi nei panni di Antonello, così, su due piedi, alle 4 del pomeriggio di un venerdì di fine settembre, non è semplice, allora vi chiedo la cortesia di provare a mettervi per un secondo in panni più comodi dei suoi, i miei. Ecco, provate a immaginare così. Hai un amico che incontri non molti anni fa, un incontro di quelli fatti attorno ai 30 anni, che se diventano amicizia perché c'è un riconoscimento reciproco, vero e silenzioso. Questa persona la incontri in un posto magnifico, un posto pieno di barche, in cui ti rifugi ogni tanto a cercare un po' di pace, nonostante il troppo vento. E quelli lo vedi fare cose sulla barca e a terra che tu non sai fare. E cerchi di imparare da lui. Lui che tra l'altro non ha niente della spocchia che hanno quegli altri, soprattutto lì in quel posto. Quelli che fanno le cose magari peggio di lui, ma sembra siano i primi a farle sulla terra. Intanto lui, a modo suo, senza fartelo pesare, in realtà senza nemmeno fartelo notare, quelle cose lì te le insegna, senza troppe parole. E poi lo vedi di rado, ma il rapporto rimane solido, così solido che lo puoi quasi tenere in mano, puoi soppesarlo, puoi valutarne il volume, la consistenza. Poi una sera, fuori da un ristorante a Milano, dopo che è qualche mese che lo vedi zoppicare lievemente e pensi o forse lui ti ha detto che si tratta di un problema al ginocchio, gli dici: Antonello, ma fai qualcosa per sta gamba, no? E lui ti risponde: no, sai, è che ho la sclerosi multipla. Ecco, mettetevi nei miei panni e provate ad immaginare che da lì in avanti, quando lo vedi o lo senti, fai fatica a parlarne, perché non sai quanto lui abbia voglia di farlo oppure no. Poi torni a casa, un attimo dopo essere entrato in casa, e pensi: avrei dovuto parlarne con lui, avrei dovuto chiedergli delle cose e non stare lì a bere un aperitivo facendo finta di niente. Che non lo so, forse è vero, forse no. Perché in realtà c'è una cosa che mi è sempre piaciuta in lui e nelle persone come lui, che è forse la cosa che mi piace di più delle persone, ed è la giusta distanza che mette tra sé e le cose. Tutte le cose, quelle importanti e quelle meno. Le passioni, le stupidaggini, la vela, l'amore, il troppo vento, il poco vento, lo sport, il lavoro, le ragazze, tutto. E ora io non saprei dire se questa distanza dalla malattia lui ce l'ha oppure no. Non credo che sia possibile tenere una distanza da qualcosa che ti cambia così drasticamente la vita. Quella distanza però c'è nel modo in cui Antonello racconta la sua storia. Una distanza che fa sembrare quella storia una cosa con cui bisogna relazionarsi, come con tutto nella vita. Anche se si tratta di strisciare sulla sabbia, in mezzo alle alghe, nell'acqua gelida del mare di aprile. Non mi metto a parlare di coraggio o di eroismo, e non lo faccio per non diventare patetico prima, e secondo perché lui non lo è, mai. Ecco, però non so se da questa storia qualcuno può imparare qualcosa, qualcun altro magari interessarsene, farla sua, e qualcun altro ancora cercare una soluzione. Non lo so, davvero. Questa però è sicuramente, di tutte quelle che ho raccontato dallo scorso anno ad oggi, la storia che mi riguarda più da vicino, perché io Antonello l'ho conosciuto prima che questa storia iniziasse e mi piacerebbe poterne raccontare presto un'altra tutta diversa. Gente che corre, gente che nuota come Antonello, gente che fa sport il cui nome è difficile da pronunciare. 349-238-6666, lo sport che in qualche modo vi sta salvando la vita. Pronto Antonello? Ciao Matte. Come Ciao, stai? Buonasera. Bene, bene. Buonasera, dai, sono le 4:20, possiamo dire buongiorno ancora. Sì, ma qui fa buio, senti, tutto coperto. Com'è il tempo a Maddalena oggi? Brutto, brutto. Oggi... No. È velato, c'è un ventaccio di levante che non mi piace per niente. Infatti oggi non sono andato a nuotare. Non hai nuotato oggi? Quando è che hai nuotato? No. Ieri, l'altro ieri? Ho nuotato l'altro ieri, tutti i giorni della scorsa settimana, e ricominciamo domani, dai. Ma l'acqua com'è? È ancora tiepida adesso, più o meno? È caldissima, è ancora calda dopo l'estate che ha fatto, è molto su di temperatura ancora, dai. Senti, allora Antonello, andiamo direttamente al punto, cioè perché la questione è che poi tu lo dici per primo e l'hai sempre sostenuto, no? Non credo ai miracoli e quindi ci sarà una spiegazione a tutta questa storia. La prima roba che viene in mente da dire è la temperatura, no? Il freddo probabilmente, non so, smuove la circolazione, fa qualcosa che ti ripermette di camminare. Non è così, è il nuoto però, tu dici. Allora, che dire, il freddo è stato il primo pensiero anche per me, nonché la prima risposta che mi hanno dato tutti coloro che ho interpellato, parlo di medici ovviamente. In realtà non è necessario il freddo, perché anche nell'acqua di una piscina comunque è lo stesso effetto. Lo stesso effetto lo raggiungo ugualmente, e per contro, stando fermo nell'acqua fredda non succede nulla, per cui ho bisogno di del movimento, di nuotare, sì, del movimento, del credo, dell'affanno. Questa è la mia sensazione. Infatti quando entro in acqua non gioco con le paperelle, come dire, ma vado come un pazzo. Senti, tra l'altro mi dicevi che c'hai praticamente un allenatore da qualche tempo. Da qualche tempo ho conosciuto un ragazzo che in realtà faceva l'allenatore di nuoto con squadre agonistiche, mi ha visto annaspare in acqua, per cui ha deciso di insegnarmi qualcosa, per cui è sempre lì sugli scoglietti di fianco al percorso che faccio io, che mi urla delle indicazioni, delle cose, in realtà mi sta aiutando parecchio. Dov'è che vai esattamente, Antonio? Per chi conosce Vado. Maddalena, magari il nome della baia, della spiaggia. Vado sull'isola di Giardinelli, che è attaccata alla Maddalena, in una baietta abbastanza anonima. Ci sono delle barchette ormeggiate, il mio amico pescatore, c'è tutto un clima familiare. E dove l'acqua è abbastanza bassa, no? Mi sembra di capire. L'acqua perché... è bassa, vado sempre in un contesto di sicurezza, di controllo comunque. Perché, scusa, una roba che mi divertiva, che mi raccontavi sempre, anche prima, era che tu non sapevi nuotare da ragazzino. Mi dicevi, i ragazzini a Maddalena non sanno nuotare, che sembra una roba paradossale per uno che nasce in un'isola. No, è così, è così. Chi nasce su quest'isola prima possibile impara a non affogare, nel senso che ci insegnano a mettere la testa sott'acqua, che non si respira sott'acqua, eccetera, però in realtà poi non essendoci mai stata una piscina, nessuno di noi ha mai fatto un corso di nuoto. Io ero particolarmente restio all'attività del nuoto, per cui rimanevo ben alla larga da queste cose. Il più possibile vicino alla barca. Assolutamente. Senti, c'è un aneddoto che mi diverte molto, che riguarda tua nonna, e questo riguarda in generale sempre le persone che vivono nei posti di mare, no? Che si dice, quelli che vivono nei posti di mare o fanno i pescatori, oppure il mare non lo conoscono per niente, e spesso ne hanno paura. È il caso di tua nonna, che quando dicevi che andavi in barca, lei pensava che tu fossi legato. Sì, era l'unica maniera per tranquillizzarla. Io da bambino ho iniziato ad andare in barca a vela, però a lei raccontavamo che una lunga cima mi teneva legato alla terraferma, per cui in questo modo si rilassava e non si preoccupava troppo per me. Insomma. Senti, Antonello, oltre a, diciamo, all'attività principale adesso è nuotare, mi sembra di capire, però tu cosa fai durante il giorno? Fai altro? È un lavoro? È un'attività? Ma, sul precariato delle categorie protette facciamo un'altra puntata. Un'altra diciamo volta, ok. In questo momento mi occupo principalmente di questa questione, anche perché poi cerco sempre di studiare, contattare persone che mi diano una mano a capire cosa c'è dietro, perché di fatto non è ben chiaro quali meccanismi ci siano. Certo. Però essendo un beneficio che capita a tutti coloro che hanno la mia patologia, e che riescono a nuotare, a fare questo nuoto un po' spinto come intensità, sarebbe credo opportuno capire fino in fondo che cosa c'è dietro e quindi individuare un meccanismo che quindi, magari un giorno potrebbe aiutarci. Quindi no? Antonello, poi purtroppo devo chiudere, quindi il punto è semplicemente che ci sia qualcuno che abbia voglia di capire perché succede questa cosa e cerchi e faccia della sperimentazione, in sostanza. Esatto. Senti, a questo punto io ti devo salutare, ti ringrazio però tanto per la storia che ci hai mandato. Grazie a te. E in bocca al lupo, ci sentiamo poi. Dai. Ci sentiamo presto. Ciao Antonello, grazie Ciao. Mille. Io ho scoperto 2 anni fa il CrossFit e la fatica disumana che mi costringe a fare mi aiuta a superare le mie paure e i limiti, da sempre presenti in me. È su una barca a vela, è al timone di una barca a vela, Antonello, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui. È al timone di una grossa barca a vela, alle sue spalle c'è il mare e un motorino fuori bordo, di quelli che si sganciano e si attaccano ai gommoncini quando si vuole scendere a terra. Ha una camicia bianca, maniche corte, un po' da figo, un po' da capitano figo. C'ha i capelli corti, spelacchiati, che sono smossi dal vento, e gli occhiali da sole. E se si guarda bene, negli occhiali da sole si vede il riflesso della persona che ha scattato la foto. Nuotare. Verbo intransitivo. Spostarsi nell'acqua compiendo una serie di opportuni movimenti coordinati. Praticare uno stile di nuoto. Estensivo. Di corpo inanimato, galleggiare o essere immerso in un liquido. Figurato. Muoversi nell'aria, librarsi. Dal latino, volgare, notare. Data, 14 secolo. O secolo 14, come vuoi. Va bene, 14 secolo. 349-238-6666. Si parla di sport in generale, di sport che ti fa bene. Abbiamo deciso di chiamare sport che ti salva la vita, ma intendetelo come volete. Lo intende bene, direi, chi scrive ma non si firma. Corro senza cuffie, orologi, minuti o chilometri. Solo la mia fatica, i miei pensieri, l'amore per la mia terra, il Trentino e le mie montagne. E la speranza di cambiare vita un giorno. E intanto corro. e sogno, non costa niente, ma rende liberi. E fra 10 giorni viene al mondo il mio secondo figlio. 349-238-6666. A proposito di corsa e a proposito di sport che ti salva la vita, quando abbiamo letto la storia di Antonello, abbiamo pensato alla puntata, ci è venuto in mente che noi, diciamo così, in casa avevamo una storia di una persona che è stata salvata in qualche modo dalla corsa. È la storia che abbiamo raccontato l'anno scorso di una persona che ha un incidente, perde la gamba da sotto il ginocchio e da lì comincia a correre e arriva a fare le Olimpiadi. È Eros Marai. Pronto, Eros? Pronto, ciao Matteo. Come ciao. Stai? Pronto, Eros, stai bene? Pronto, mi senti? Io ti sento, tu mi senti? Perfetto, perfetto, ti sento benissimo. Benissimo, come stai? Benissimo, direi, benissimo. Sei al lavoro? Mille. Sei a casa? Sì, sì, sono a casa oggi, prima grigia, sì. Ma ti sei preso un giorno apposta perché ti chiamavamo? No, il sabato e il venerdì finisco alle 14, quindi... Mi ricordi cosa fai, Eros, che non mi ricordo più? Io lavoro presso il comune di Bardolino. Che è il tuo paese, giusto? Che è il tuo paese? No. Sì, sì, sì, è il mio comune, sì, sì, sì. Ok, ma quindi non sei trentino? Ero convinto fossi trentino, non so perché... No, veronese. Dopo. Ah, no, scusami, è che l'incidente è avvenuto sulla strada per il Brennero, giusto? Esatto, mi ricordavo quello. Okay. Di Milano mi aveva soccorso. Sì, sì, sì. Tra l'altro possiamo raccontare anche questo aneddoto legato alla storia. Chiunque non l'abbia sentita, brevemente, insomma, Eros ha questo incidente e viene soccorso, ed ecco la sua fidanzata, viene soccorso da un ragazzo di Milano che è un alpino, giusto? Sì, esatto, sì. Che praticamente ferma l'emorragia con una cintura, ti tiene, sta vicino a te per quel quarto d'ora drammatico per terra e poi, insomma, voi vi rincontrate, eccetera, eccetera. Ma anche la tua fidanzata, che non si fa nulla invece dell'incidente, viene soccorsa. Corsa da una persona. Esatto. Quando noi raccontiamo la storia alla radio, lo stesso giorno ci scrive una persona che dice: io sono quello che ha soccorso la fidanzata di Eros, ma poi quando sono arrivate le ambulanze me ne sono andato. Possiamo rimetterci in contatto? E cos'è accaduto, Eros? È accaduto che poi mi ha scritto un'email, ci siamo sentiti via mail, ci siamo sentiti per telefono, lui era commosso perché era, cioè, con ricordo che gli ero rimasto di quella scena di me senza la gamba, di mia moglie. Cioè, mia fidanzata all'epoca era sulla strada quasi senza sensi, sì. E finché, insomma, ci siamo sentiti e quest'estate ci siamo anche visti. È venuto a Bardolino, abbiamo mangiato un bel gelato assieme, è stata un'emozione enorme poter rivederlo perché è stato veramente un gran caso. Quindi possiamo dirlo, voi siete qui, riunisce le genti e tutti gli ascoltatori. Eros, scusami, poi devo salutarti, non ho troppo tempo. Ricordiamo, sì. Tu hai fatto le Olimpiadi ad Atene e a Pechino, io giusto? Ho fatto Atene e Pechino, ho fatto nella corsa, ho corso nei 100 metri, nei 200 metri, nel salto in lungo e in entrambe le edizioni sono sempre arrivato nella finale dei 100 metri correndo appunto dietro al ormai famoso Oscar Pistorius. Certo. Senti, corri ancora, Eros? Ti fai adesso? No, io ho smesso da fine 2009, tra 2009 e 2010 ho smesso perché ho avuto un problema alla gamba, ho dovuto accorciare un po', diciamo, l'arto residuo, ecco, e poi si è allargata la famiglia, è arrivata una bambina che adesso ha 19 mesi e appunto nel prossimo marzo arriverà il secondo, quindi Okay. Il tempo per lo sport purtroppo è un po' poco. Non fai neanche delle corse dei faticanti per deconcessi? Faccio trekking, vado a camminare montagna. Ah, è vero che ci hai mandato anche una foto? No, ci hai mandato una foto in cui sei aggrappato a una montagna praticamente. Sì, no, faccio ferrate, adesso in questo periodo meno, però facevo ferrate, sì, proprio sulle Dolomiti. Eros, senti, ci prometti che al prossimo live, visto che lo scorso non sei venuto, al prossimo ci vieni a trovare? Poco ma sicuro. Eros, grazie mille per la chiacchierata. Grazie a te, Matteo. E in bocca grazie al lupo ancora. Per il secondo figlio anche. Grazie mille ancora, ciao. Ciao, Eros, grazie. Ciao, ciao. 349-238-6666. E lo sport, Eros è un grande, continua a stupirmi per la serenità con cui ti racconta tutto. Sì, facevo ferrate, certo. Sì, sono andato alle Olimpiadi, sì, Atene, poi Pechino, così, come se fosse la cosa più semplice della terra. Il judo mi ha salvato la vita, dice Marco, che ho preso e lasciato più volte, ma nei momenti bui della mia vita è stato il mio salvagente. 349-238-6666. Torniamo a parlare di una cosa che ha poco a che fare con questo, ha a che fare con un regalo che Radio 24 fa a tutti gli ascoltatori e che riguarda l'arte, riguarda la mostra di Picasso. La sera del 24 di ottobre, mercoledì alle 21, ci sarà una serata chiusa al pubblico, aperta solo agli ascoltatori di Radio 24, in cui ci saranno presenti alcuni conduttori, io tra quelli, ci sarà Gianluca Nicoletti che insieme a Barbara Alberti farà una piccola performance e tutta la serata appunto sarà dedicata solo alle persone che ascoltano questa radio e che possono aggiudicarsi qui quei biglietti. Come fare? Molto semplicemente, inviate a voi siete qui @radio24.it una storia che riguardi voi, vicino, di fronte o tangenziali a un quadro di Picasso, la stessa cosa che ha fatto Chiara. Lessi la didascalia che diceva Picasso, Guernica. Non mi interessai al titolo dell'opera o a chi l'avesse dipinta, ma quel garbuglio di corpi pieni di terrore mi fece raggelare il sangue. Man mano che la scuola andava avanti e usavo tutti i giorni quel libro, cominciai a voler superare questa paura e guardare quell'immagine spesso per notare qualche dettaglio in più. A me, innocente bambina di 10 anni, vedere un tale strazio faceva odiare ancora di più la guerra, quella fatta dai grandi cattivi. Un giorno però notai qualcosa di più. Un fiore proprio al centro del dipinto, tenuto in mano da uno di quei corpi distrutti. Presi subito un evidenziatore giallo e lo colorai attentamente. Non so perché lo feci, ma lo trovavo molto bello. Da quel momento non ho più avuto paura di vedere quel quadro, forse perché quel fiore evidenziato mi aveva fatto capire che nonostante gli uomini cattivi, qualcosa può sempre rifiorire. Grazie a Chiara, grazie a tutti quelli che vorranno partecipare a quella serata inviando una mail, una storia. Voi siete qui, @radio24.it. Le prime 20 mail che arriveranno saranno scelte per 2 biglietti alla serata del 24 di ottobre. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina. Grazie ad Antonello. La storia oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Salve, mi chiamo Caterina, ho 37 anni, abito a Londra e la storia di lunedì è la mia. Parlo di regali inspiegabili e inaspettati. Questa è la mia storia ed io sono qui.